Ascoltate dunque la parola che il Signore sta per pronunziare. Levati, fai il processo davanti alle montagne, e le colline odano la tua voce. Udite, montagne, l'accusa del Signore. Porgete orecchio, fondamenta della terra, perché il Signore ha il processo con il suo popolo ed ha lite con Israele. Popolo mio, che ti ho fatto? In che ti ho nuociuto? Rispondimi. Io ti ho fatto salire dalla terra d'Egitto e ti ho riscattato dalla casa di schiavitù. Ho inviato davanti a te Mosè, Aronne e Maria con lui. Popolo mio, ricorda le trame di Balak, re di Moab, e che cosa gli ha risposto Balaam, figlio di Beor, nella tua marcia da Sittim a Galgala, per riconoscere le meraviglie del Signore. Con che mi presenterò davanti al Signore? Mi incurverò davanti al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con giovenchi di un anno. Può dilettarsi il Signore di migliaia di montoni, di miriadi di rivoli d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per il mio delitto, il frutto del mio seno per il mio peccato? Ti è stato annunziato, o uomo, ciò che è bene, e ciò che il Signore cerca da te, nient'altro che compiere la giustizia, amare con tenerezza, camminare umilmente con il tuo Dio. Voce del Signore. Egli grida alla città. Ascoltate, tribù e assemblea della città, i cui ricchi sono pieni di violenza e i cui abitanti proferiscono menzogna. Posso io sopportare un batte empio e un'efa diminuita, abominevole? Posso io giustificare le bilance empie e una borsa con pesi alterati? Anch'io comincio a percuoterti, a devastarti per i tuoi peccati. Tu seminerai, ma non raccoglierai. Frantumerai le olive, ma senza ungerti d'olio. Farai il mosto, ma non berrai il vino. Tu mangerai, ma non ti sazierai, e ci sarà la fame in mezzo a te. Se metterai da parte, non conserverai niente, e se conserverai qualcosa, lo darò alla spada. Tu pratichi le usanze di Omri e tutte le opere della casa di Acab. Tu cammini secondo i loro principi, sicché farò di te un esempio terrificante, dei tuoi abitanti un oggetto di derisione, e così porterete l'obbrobrio dei popoli.